Mani, mani, mani, con la Rosciani, se uno si incazza perché paga di più. Poi c'è Meazza che te lo spiega, stai su. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Allora, non siamo tornati a due di denari, scusa. Sì, perché sono confuso. Allora, il serpente corallo ha concluso le sue emissioni nell'agosto scorso e quindi sabato, domenica in replica abbiamo finito. Se cercate trovate ancora i podcast se vi fa piacere. Bene. Però siccome i temi erano finiti, allora io te ne propongo dei nuovi e non hanno aspettato neanche che arrivasse il mese nuovo, settembre, appunto i serpenti corallo che circolano indisturbati attorno a noi, caro Mauro. La nuova vittima è un altro sportivo. Dopo le vicende del tuo amico, l'allenatore della tua squadra del cuore, Antonio Conte, ne abbiamo parlato tanto nella settimana in cui tu non c'eri, settimana scorsa, io ho immagino fatto focus che ne economia. Abbiate approfittato per dileggiare il nostro allenatore. Nelle giornate in cui lui stava rinegoziando appunto il contratto con il club nerazzurro, veniva a sapere che era rimasto vittima anche di una bella truffa finanziaria, però a Londra. E ne abbiamo scoperta una di nuovo a casa nostra e riguarda ancora una volta un grande campione dello sport, questa volta della pallavolo. Le cifre in ballo sono un po' più contenute, ma sono sempre oltre i 100.000 euro. Che cosa è successo a Lorenzo Bernardi, grandissimo campione del volley? Lorenzo Bernardi sarebbe stato truffato da un finanziere veneto, presunto finanziere, che è finito adesso a processo. Perché? Perché costui, che tra l'altro è un signore che ha vinto 9 scudetti, 4 coppe campioni, 2 ori mondiali, un argento olimpico, insomma non esattamente il primo venuto, ci avrebbe rimesso 130.000 euro. Un'amica di famiglia di Bernardi ne aveva investiti 250.000. Gli veniva presentato un investimento esclusivo. Certo. Ecco, io dico adesso però... Lollo Bernardi, ma anche voi tutti ascoltatrici, ascoltatori, Mario Rossi, Giovanni Bianchi, zia Antonio Maria. Conte, ecco. Ma se uno vi dice che vi darà degli interessi del 25% e del 27% negli anni dei tassi negativi, dei bot con i tassi negativi, un leggerissimo sospetto. Esatto, ma ancor prima, se vi dicono che è un investimento esclusivo, scappate a gambe levate. E insomma, temi che, come dire, circostanze che devono far sorgere qualche sospetto, ma invece intorno alle quali dobbiamo continuare, caro Mauro, a richiamare l'attenzione dei nostri ascoltatori. La cosa anche da rimarcare è che il finanziere che ha sottratto, che ha sfilato questi soldi, era un amico. Era il cosiddetto amico di famiglia, perché purtroppo, come dice sempre il mio amico Marco Loconte, che con Stefano Elli conduce con me il Serpente Corallo, c'è sempre questa familiarità che induce ad abbassare le difese. Siccome è un amico di famiglia, me l'hanno presentato, so che mi ha parlato bene di Deborah Rosciani, ecco, allora io mi fido. No, i soldi comunque bisogna curarseli molto attentamente. Va bene, ne parleremo sicuramente al Serpente Corallo, chissà, magari faremo un'edizione invernale, chi può dirlo? Altro che, guarda, mi pare che ci sia assolutamente bisogno. Intanto noi andremo avanti con i nostri Investire Informati del giovedì e giovedì prossimo ricominciamo anche con questa rubrica dedicata al mondo della finanza e anche al mondo della consulenza. Mi pare di capire che dovremmo ripartire anche da questi temi. Oggi però parliamo di tutt'altro, parliamo di trasporti, perché oggi rischia di essere un click day. Chissà cosa sta succedendo al sito del Ministero dello Sviluppo Economico nel caso in cui questa piattaforma funzioni oggi regolarmente. È il giorno degli incentivi, vedremo che cosa succede, ve lo diremo in diretta. Abbiamo scomodato ovviamente la voce di colui che tutto sa in materia, cioè Maurizio Caprino, che è il maggior conoscitore, io credo, europeo, ma probabilmente mondiale, del codice della strada e di tutte le sue varianti, quindi anche delle questioni di incentivi auto. Lo avremo tra poco ai nostri microfoni collegato con noi. Prima abbiamo magari un giornale radio del risparmio piccolino piccolino? Ce l'abbiamo. Andiamo. Drin drin, edicola risparmio. Questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non va. Questo primo settembre succedono un sacco di cose, da quello che posso apprendere dalla stampa e non solo. È vero che oggi viene abolito il super ticket, che è questa quota aggiuntiva di 10 euro sul ticket per le visite mediche specialistiche e per gli esami clinici? È vero, te lo confermo. In realtà, allora, sarà un'abolizione di cui molte regioni non ci si renderà granché conto, perché già era stato abolito in Emilia-Romagna, in Lombardia. Alcune regioni lo avevano parametrato sul reddito, quindi anche lì sostanzialmente a pagare erano in pochi, però insomma c'erano ancora delle regioni, per esempio Friuli, Liguria, il Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, lì veniva pagato, veniva, perché da oggi non verrà più pagato da tutti, è il super ticket, come hai detto tu, da 10 euro. L'annuncio era stato ribadito di questo cambiamento proprio dal ministro della salute Roberto Speranza, che aveva voluto segnalare e ricordare questo cambiamento. Allora, un tema di risparmio e di investimento. Sapete che noi molto spesso parliamo di fondi di investimento, descrivendoli un po' come quella modalità di investire che in qualche maniera protegge i risparmiatori, perché danno l'opportunità di diversificare al massimo nel panorama finanziario. Molto spesso però comprendiamo poco la natura dei costi e degli oneri, appunto, che dobbiamo sostenere per investire in questi prodotti. Peraltro, proprio quest'estate, più volte il Sole 24 Ore ha fatto delle inchieste richiamando l'attenzione dei lettori su questo tema. Che cosa è successo? È successo che negli Stati Uniti l'industria di settore ha deciso di eliminare le commissioni di gestione sui fondi monetari, e d'altronde mi sembra anche una decisione ragionevole se consideriamo che intanto nei mesi di marzo, aprile e maggio molti risparmiatori hanno deciso di uscire dai fondi azionari, che sono stati molto più volatili e molto più incerti, per portare il loro risparmio sui fondi monetari. Ma siccome sono fondi che investono su titoli di Stato, scadenze a breve termine, che hanno generalmente dei tassi negativi, proteggono magari un pochino di più, scivolano in negativo un po' meno violentemente del mercato azionario, ma comunque in ogni caso in questo momento non generano grandissimi ritorni nel capitale investito, per cui l'industria ha pensato di abolire i costi di gestione. Chissà che questa iniziativa, questo negli Stati Uniti, non venga magari così introdotta anche in Italia. Magari suggeriamo un po' al mondo dell'industria del risparmio gestito di così comportarsi in maniera un pochino più trasparente con il risparmiatore finale. Hai preceduto la mia domanda, perché ti avrei chiesto, ma questo solo negli Stati Uniti, vero? Al momento, da quello che scrive Andrea Franceschi sul Sole 24 Ore di oggi, pare di sì. Però insomma noi abbiamo un'opportunità di negoziare con il nostro consulente finanziario. Andiamo a guardare il resoconto sui costi del nostro investimento. MiFID, la disciplina europea, la direttiva europea, sì, ha imposto naturalmente al mondo della gestione, all'industria finanziaria, agli intermediari finanziari, di rendere noti ai risparmiatori finali appunto i costi che vengono sostenuti per investire. E se notate che c'è qualcosa che non torna, negoziate naturalmente. Magari se sul fondo monetario che avete il costo vi risulta esageratamente elevato, così portate un po' alla conoscenza del consulente che negli Stati Uniti hanno fatto una piccola marcia indietro su questo. E chissà che sia un buon esempio. Intanto in Europa, nel frattempo, nell'Unione Europea, da oggi cambiano le regole per l'omologazione delle automobili. È una notizia che abbiamo voluto darvi anche per fare così da ponte, da traino per il tema che andremo ad affrontare tra poco, cioè gli incentivi in Italia per l'acquisto delle autovetture e di altri mezzi, che saranno il tema principale della puntata di oggi. Oggi però, appunto, in tutta l'Unione Europea ci sono queste nuove regole per l'omologazione. Sono regole che sono derivate dallo scandalo, lo ricorderete, lo scandalo del diesel omologato, come dire, in modo truffaldino, possiamo ritenere, da Volkswagen, cioè con dei test che erano addomesticati rispetto alle reali emissioni. Dieselgate. Il famoso Dieselgate, esatto, brava Deborah, è proprio quello lì, ha spiegato Thierry Breton, che è il commissario all'industria del mercato unico, che gli europei si aspettano di guidare auto più pulite e più sicure, quindi serve una applicazione, un controllo delle regole a livello europeo. D'ora in poi la Commissione europea potrà effettuare controlli sulle auto, attivare richiami a livello dell'Unione e imporre multe fino a 30.000 euro per auto in caso di violazione della legge. Tutto ciò premesso, io quasi quasi partirei con una sigla apposita selezionata come sempre dalla sapienza e dalla sagacia di Marco Lombardo, che abbiamo rivisto anche lui fisicamente finalmente dopo tanti mesi di distacco, ma l'abbiamo rivisto sempre distanziato, vorrei rassicurare in primis il ministro Speranza, che manteniamo, e anche il comitato tecnico scientifico, manteniamo rigorosamente le distanze. Allora regia, per favore, possiamo avere uno stacco musicale? Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina, nella macchina. Allora, il bonus mobilità, questo è il tema che affrontiamo questa mattina. Tanti soldini il governo ha messo sulla bilancia, naturalmente per consentirci di rinnovare il parco auto nel nostro paese. 50 milioni in uno stanziamento iniziale che sono andati prontamente bruciati entro il 7 agosto, se non mi ricordo male. Dopodiché il governo con il decreto agosto ha deciso di ampliare le risorse finanziarie disponibili appunto per consentire l'acquisto di un'auto nuova. C'è anche un pacchetto di fondi per l'auto elettrica, però questi non sono andati esattamente a ruba. Allora, qual è esattamente il problema che si presenta oggi? Allora, oggi sostanzialmente c'è la possibilità di accedere ai nuovi fondi che sono stati stanziati dal decreto legge agosto, e questo dovrebbe far sì che c'è la possibilità di acquistare delle vetture sfruttando, appunto, giovandosi degli incentivi. Però, come ha avvertito domenica sul Sole 24 Ore il collega Maurizio Caprino, le richieste rischiano di essere molto superiori alle disponibilità di fondi, e quindi quello di oggi potrebbe diventare un click day. Cosa vuol dire? Il click day significa che, insomma, chi ce la fa a il cliccare in arriva, tempo... Il tardi arriva ma le alloggia, esatto. Un grande classico. Non volevo dirla così brutalmente, però è proprio come hai detto tu, Deborah. Mm. Chi riesce a cliccare per primo ce la fa, e chi invece arriva a tardi potrebbe non trovare, certo, più alcun soldino, alcun incentivo. Ma tutto questo lo sa benissimo Maurizio Caprino, che saluto, gli do il benvenuto, anzi il bentornato, perché sei spesso nostro ospite qui a Due di Denari. Buongiorno Maurizio. Grazie, buongiorno a tutti. Volevo fare anche un'altra anticipazione, Mauro, cioè anticipare appunto ai nostri ascoltatori che nella seconda parte del programma ci occuperemo anche di un altro tema molto delicato che sta molto a cuore a molti nostri amici ascoltatori, cioè coloro che viaggiano con i mezzi pubblici. Come sapete, appunto, anche a causa e soprattutto a causa del lockdown nei mesi di marzo, aprile e maggio siamo stati a casa, quindi non abbiamo utilizzato i mezzi, abbiamo sospeso l'abbonamento o ferroviario o appunto quello per i mezzi pubblici, e però a quanto pare in molti ancora non hanno ottenuto alcun rimborso, nonostante anche in questo caso il governo avesse stabilito in tal senso, stanziando credo anche delle risorse. In ogni caso sono le società che devono farsi carico appunto di interagire con i propri clienti. Assutenti, una grande associazione dei consumatori, sta sollevando questo problema, credo che ieri abbia scritto una lettera anche alle autorità pubbliche per capire come e quando i viaggiatori verranno rimborsati in questo senso. Ne parleremo con il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, più tardi. Intanto ripartiamo con il bonus mobilità. Esattamente, torniamo alla mobilità privata, Maurizio. Allora, che possibilità ci sono di riuscire a cogliere questi incentivi, e se ce li vuoi ricordare in una rapidissima rassegna? Allora, sostanzialmente gli incentivi sono quelli che interessano di più alla gente, sono quelli che sono stati introdotti dal 1 agosto nella fascia da 60 a 110 61 anzi a 110 grammi chilometro di CO2, il che significa, in linguaggio corrente, significa che ne beneficiano non pochi, anche non pochi motori a benzina e a gasolio, perlomeno quelli che consumano di meno, e ne beneficiano anche un bel po' di ibride, di auto ibride normali che erano rimaste fuori dagli incentivi che ricordiamo sono in vigore dal marzo 2019, ma sono incentivi riservati alle auto elettriche e alle ibride cosiddette plug-in, quelle tanto sofisticate e costose da riuscire a percorrere a batteria qualche decina di chilometri ed essere ricaricabili dalla rete. Infatti, scusami Maurizio, Ti interrompo, questa prima ondata di incentivi, questo primo set di incentivi non era stato granché sfruttato, un po' perché c'era il lockdown certamente, ma anche quando poi c'è stato il ritorno a una quasi normalità non era stato particolarmente sfruttato, dico bene? Sì, esattamente, ed era una cosa prevedibile, anzi già prevista da fine 2018, cioè da quando questa misura fu messa a punto per poi entrare in vigore il 1 marzo 2019, e questo era nelle cose, perché è una misura che va a incentivare delle fasce di modelli che stanno ancora nascendo, anzi l'obiettivo era proprio quello di accompagnare la nascita di questo nuovo mercato, la cosiddetta elettrificazione, ed era una misura che il governo aveva studiato non tanto per aiutare le fabbriche a produrre, quanto per far entrare nella gente l'idea che ci si può muovere anche in elettrico. È un'idea che comunque deve entrare nella testa della gente, perché entro il 2030 l'Unione Europea ha stabilito che le emissioni di CO2 dei veicoli venduti, delle vetture vendute, devono abbattersi del 37,5% rispetto a oggi. Quindi era una misura, diciamo, accompagnatoria, non ci si aspettava un gran successo, ed effettivamente un gran successo non c'è stato. Per questo motivo, poi, dopo il lockdown, con tutta la crisi quindi che c'è stata sul mercato dell'auto e in tutta la filiera, il governo si è convinto a fare degli incentivi, diciamo, più popolari, quindi anche per estesi perlomeno ai più virtuosi fra i motori a benzina e a gasolio, e lì ovviamente, essendoci il mercato, i soldi sono andati a ruba appunto in meno di una settimana. È arrivato un rifinanziamento con il decreto agosto, rifinanziamento quindi in vigore proprio dal giorno di Ferragosto, però è un rifinanziamento abbastanza insufficiente, perché teniamo conto che 50 milioni sono finiti in 7 giorni e adesso ci sono a disposizione 100 milioni almeno per la fascia, diciamo, quella più dove si trovano i veicoli a diesel e a benzina. Ovviamente c'è da considerare che sì, sono 100 milioni, quindi il doppio di quello che si è esaurito in 7 giorni, ma c'è da considerare che abbiamo proceduto al buio per tutto il mese di agosto, perché sostanzialmente il portale gestito da Invitalia, il portale di prenotazione della piattaforma, è andata in ferie e quindi stamattina sono rovesciate sul portale le prenotazioni relative ai contratti acquisiti in agosto. Abbiamo avuto un data breach, che ti risulti? Maurizio. No, almeno. Primo aprile. Ecco, no, quello no, per fortuna, però ci mancava anche questo. La notizia che appare adesso sul sito apposito del Ministero dello Sviluppo Economico è che di questi 100 milioni in questo momento ne sono rimasti 83, quindi già una fetta corposa è andata via nelle prime ore della mattinata. Anzi, adesso ho fatto un aggiornamento, siamo arrivati già a 82,5, quindi le prenotazioni procedono abbastanza spedite, e quindi diciamo non c'è stato proprio l'effetto click day propriamente detto, cioè quando i fondi si esauriscono nel giro di pochi secondi a partire dalla mezzanotte, però insomma il ritmo è già discreto, per cui se le cose stanno così diciamo o finiscono in giornata o finiscono comunque entro pochi giorni. I concessionari immagino che devono inserire la domanda sulla piattaforma di Invitalia e Ministero dello Sviluppo Economico, giusto Maurizio? Assolutamente sì, fanno tutto loro, l'utente non deve far nulla, deve solo sperare che il suo ordine venga processato in tempo prima che si esauriscano i fondi. Certo. E tra l'altro ci sono delle clausole che le case automobilistiche hanno inserito nei loro contratti che mettono in chiaro proprio questo, ossia che in caso di esaurimento fondi loro non sono tenute a integrare l'incentivo pubblico che eventualmente il cliente avesse perso. Ovviamente poi il cliente può anche decidere di tornare indietro, di annullare il contratto, e questo ovviamente finché la vettura non viene immatricolata, però insomma è una questione un po' complessa se la vettura viene immatricolata. Allora, innanzitutto volevo così chiamare i nostri ascoltatori a raccontarci. Bravo. Se hanno prenotato un acquisto e quindi stanno in attesa di sapere se potranno usufruire degli incentivi o meno. Ha inserito la domanda. Se volete raccontarcelo in diretta, 800 24 00 24 è il numero verde. Se volete scrivercelo, via SMS o usando WhatsApp 349 238 6666. Ma Maurizio, questa cosa mi sembra particolarmente importante. Mettiamo che io sia andato al concessionario in questi giorni di agosto, abbia visto la macchina, abbia firmato l'ordine, insomma, ci siamo messi d'accordo, per dirla in modo molto generico. Attirato dall'incentivo, magari l'operazione l'ho fatta prevalentemente perché c'era questo aspetto. E adesso però devo aspettare perché potrei non avere l'incentivo. Sì, esattamente, il problema è proprio questo e ovviamente le case automobilistiche questo rischio se lo erano ben prefigurato, tant'è che hanno inserito apposite clausole nei loro contratti. Sono clausole, non sono tutte uguali, devo dire la verità, però il significato, il senso è proprio quello che dicevo prima, ossia da un lato il concessionario e la casa automobilistica sono liberi di non integrare il contributo statale che viene dato normalmente appunto a chi se lo aggiudica, ma dall'altro però se manca il contributo statale il cliente è libero di ritirarsi. Poi ovviamente diciamo che nella prassi quotidiana commerciale può cominciare una trattativa per cui magari si comincia a dire va bene, ma magari ti regalo italiani per 3 anni, ti regalo una garanzia supplementare, qualche accessorio in più, insomma. Diciamo che il tuo consiglio è quello di cercare, se uno perde l'accesso all'incentivo, perché abbiamo capito che in pochi giorni potrebbero esaurirsi, magari non nelle prossime ore, ma forse nei prossimi giorni, allora si può negoziare. Sì, si può negoziare, intanto vi do un dato, in questi 5 minuti che abbiamo parlato sono già andati via più di 300.000 euro, secondo quello che si vede dal sito messo su dal Ministero. Un attimo ci vuole prima di arrivare a 100 milioni, mi pare che potrebbero esserci margini. Mi pare che il gocciolamento sia abbastanza costante, quindi allora, anche l'utilizzo. Prego Debora. No, c'è un'ascoltatrice che vuole raccontarci la sua storia, prima però volevo anche fare una precisazione perché io ho impropriamente messo sotto il cappello del bonus mobilità questi incentivi auto, che in realtà sono, come dire, una cosa diversa rispetto a ciò che è contemplato dal bonus mobilità, e sono gli incentivi invece per l'acquisto di biciclette e monopattini. Io spero ho fatto un gravissimo errore. No. Il problema del è che di questi bonus monopattini e biciclette ha scritto dottamente da par suo proprio Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore di domenica. Dopo le 11:30 intanto sentiamo Daniela da Genova. Daniela, benvenuta. Lei praticamente è la prima ascoltatrice che sentiamo in questa versione vicino all'autunno di Due di Denari. Ci fa piacere che a inaugurare le nostre conversazioni sia lei. Benvenuta. Benissimo, grazie, buongiorno. Io sono la vostra assidua ascoltatrice. Grazie. Senta, volevo chiedere questo. Io ho comprato, ho ordinato un'auto ibrida prima del lockdown però poi non mi è più arrivata doveva arrivare a maggio e adesso mi hanno detto che è disponibile qualche giorno fa. Naturalmente devo ancora saldare questo tipo di acquisto che devo, può rientrare nell'incentivo di cui stavate parlando? Grazie Daniela, aspettiamo a risponderle dopo le 11:30. Vuoi così, creare Maurizio? Questa suspense? Certamente, mi piace, dai, un po' di brivido. Maurizio, abbi pazienza perché adesso è il momento delle borse. Viva la fatturazione elettronica. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Aspesi, lei ha già attivato lo speed? Sì, perché ho comprato le biciclette. Per avere il bonus. Che ancora ha visto che non è partito, insomma stiamo ancora aspettando i provvedimenti attuativi. La fiducia. È come in borsa, si scontano degli scenari futuri, quindi io mi sono adeguato e... Va bene, contando la possibilità di riceverli l'ho acquistata. E allora più che altro lei ha preso un future più che un bonus in questo momento, mi verrebbe da dire. Ne parleremo tra un attimo, Maurizio, esatto, del bonus bici che ancora stenta a prendere corpo, per dir così. Ti rigiro allora la domanda dell'ascoltatrice, di Daniela, che dice: ho acquistato un'auto ibrida, ma prima del lockdown, prima di tutto questo. Ma adesso finalmente me la consegnano, ma questo acquisto è incentivato? Bisognerebbe vedere, credo di capire, se è incentivato ai sensi del vecchio bonus. Maurizio. Beh, no, in realtà la situazione si presta a tantissime varianti, nel senso che intanto bisogna vedere che tipo di auto ha comprato, quindi se era un'auto che rientrava già nel vecchio bonus, quindi un'elettrica o un'ibrida plug-in, quindi per dare un dato preciso, emissioni di CO2 fino ai 60 grammi chilometro, non uno di più. Se non lo fosse, potrebbe teoricamente rientrare nei nuovi incentivi partiti il 1 agosto, che stanno avendo questo faticoso prolungamento che abbiamo descritto, perché in realtà vale la data di stipula del contratto e nessuno vieta, siccome il contratto non ha data certa, non è che si vada dal notaio a fare una stipula come quando andate ad acquistare una casa, è sempre possibile rivederlo questo contratto d'accordo fra le due parti, quindi nella prassi succede anche questo e bisogna vedere che cosa il concessionario propone al cliente. L'unico punto fermo è che una volta che questo contratto è stato inserito come prenotazione, quindi ha avuto in qualche modo una sua data certa, ma proprio in virtù di questa prenotazione, l'auto nuova deve arrivare per tempo in modo tale da essere immatricolata entro i 180 giorni dalla prenotazione. Scaduti i 180 giorni dalla prenotazione si decade dall'incentivo e la cifra che era stata attribuita al cliente viene rimessa in palio, viene rimessa in gioco, rientra come residuo, diciamo, nei fondi ancora da attribuire. Allora, darei adesso la parola ad un concessionario, Mauro, che bussa alla nostra porta, anzi squilla il nostro telefono. Eddie dalla provincia di Modena, benvenuto, grazie. Buongiorno, mi chiamo Eddie, sono della provincia di Modena, Pavullo nel Frignano. Volevo dire che questi incentivi, allora, avendoli pubblicizzati da circa 2 mesi prima, hanno bloccato il mercato. Ci siamo trovati con la fine di giugno, di luglio, a dover prendere dei contratti, farci fare degli assegni datati il 1 agosto, e sono dovuti andare nelle concessionarie per fermare, avere la certezza dell'incentivo la mattina alle 7 a lavorare e poi dopo, perché pensavano che finissero in giornata, invece sono durati qualche giorno di più. Che è stato fatto poi come gli incentivi del 110% per l'edilizia, che chi voleva anche fare qualcosa si è fermato perché aspettava che ci fosse questo, certo, incentivo. Altra cosa importantissima secondo me è che non c'era bisogno di stanziare i soldi, perché i soldi li avevano già in tasca. Se parliamo di una macchina da 20.000 euro, c'è cioè 4.400 euro solo di IVA, lo Stato si accontenta un po' più dell'IVA, prende l'immatricolazione, prende l'IPT e muove il mercato. Ma lei ha avuto molte richieste, naturalmente, una volta che si è capito che arrivavano gli incentivi? Io ne ho avute diverse, ho dovuto dare indietro delle caparre, riformulare il contratto, che sono comunque sempre dei sotterfugi, perché la macchina l'avevo bloccata, l'ho dovuta risbloccare con il rischio che quando la risbloccavo che mi andasse venduta ad un altro, e poi trovarsi davanti al cliente a riformulare il contratto e dirgli che non ha più diritto all'incentivo per cui era venuto, diventa un problema, perché la gente aspettava veramente questo incentivo. Eddie, cosa dobbiamo dire? Qua viviamo una situazione straordinaria che ovviamente si è riflessa anche su, allora, su questa comparte. Naturalmente non abbiamo sentito la parte in cui si riferiva della datazione degli assegni, ma invece quello non l'abbiamo colto, invece l'effetto naturalmente di blocco quando si annuncia un incentivo c'è spesso, c'è in tanti aspetti, e Maurizio, non potevano fare eccezione neanche le automobili, giusto? Assolutamente sì, è così da sempre, ma anche da prima che venisse, anzi era un rischio che era presente fin da quando è stata fatta la prima campagna di rottamazione, che è partita il 6 gennaio del 1997, ormai è archeologia. Dovete sapere, dovete ricordare che questi incentivi sono stati annunciati, furono annunciati credo il 27 o il 28 dicembre, quindi assolutamente a ridosso, erano allo studio già da mesi, ma ovviamente già all'epoca Ministero dell'Industria si guardò bene dal preannunciati, proprio per evitare questo effetto di blocco del mercato. La stessa, diciamo, è una cosa che è successa in tanti altri paesi del mondo, ed è comunque il problema in generale degli incentivi anche quando non li si preannuncia, perché alla fine un incentivo cos'è? È un mobilitare delle risorse che la gente in questo momento non ha, non avrebbe di suo, quindi viene invogliata a spendere, però una volta che le ha spese, quindi voglio dire che quando poi finisce l'incentivo, quindi ulteriore problema, quando finisce l'incentivo il mercato si riferma ancora. È stato poi il motivo per cui sempre dopo questa prima famosa ondata di rottamazioni del 97 dovettero farne un'altra, sia pure con incentivi più bassi, proprio per evitare che il mercato andasse completamente in stallo. Quindi dobbiamo anche chiederci che senso abbia nel medio-lungo termine andare avanti con degli incentivi che non fanno altro che drogare un mercato che invece di suo sarebbe saturo. Abbiamo adesso Luigina dalla provincia di Brescia che ascoltiamo fra un istante, però siccome il tempo corre, fra un po' ci colleghiamo anche con Furio Truzzi di Assoutenti per un altro argomento. Maurizio, facci il punto della situazione anche sul bonus per bici e monopattini, in questo caso un bonus che spetta per gli acquisti effettuati dal 4 maggio, anche in questo caso per farne richiesta era necessario iscriversi a questa piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico. A che punto siamo? Siamo ancora a zero, nel senso che la norma appunto prevede che si parta il 4 maggio, una norma che era già retroattiva perché stiamo parlando comunque di un'entrata in vigore, se non mi ricordo male, il 19-20 di maggio, quindi era già retroattiva. Si diceva che l'attuazione sarebbe arrivata in un mese, poi slittata a 2 mesi, quindi entro fine luglio. È finito anche agosto e ancora non si vede nulla all'orizzonte. Ovviamente più passa il tempo e più sale il rischio click day, nel senso che chi continua ad allungarsi la lista di chi ha acquistato a partire dal 4 maggio, quindi quando questa piattaforma sarà finalmente attivata, rischiamo che le risorse siano prese da chi ha già effettuato l'acquisto. Si sa che il Ministero dell'Ambiente, il ministro Sergio Costa, in audizione parlamentare ha annunciato, ormai era giugno, che avrebbe trovato altri fondi, non se n'è più saputo nulla, quindi rimaniamo nell'incertezza e più di questo non possiamo dire. È un bonus in surplus, verrebbe da dire, prendendo il termine dal ciclismo su pista. Il problema sarà però, Maurizio, quando si riparte, perché ci sarà la folla della gente che si è fatta rilasciare la fattura, mi pare, se fosse obbligatoria, no? Sì, questo è un altro problema, nel senso che attualmente le FAC prevedono la fattura o un documento equipollente, cioè un documento anche straniero che riporti le stesse indicazioni che ci sono nella fattura italiana, però appunto il rischio è che anche chi chiede il rimborso, perché chi ha già acquistato deve chiedere il rimborso di parte di ciò che ha pagato al venditore, mentre a regime era previsto già che si ottenesse un voucher da spendere direttamente presso i punti vendita convenzionati. Il rischio è che non si arrivi alla seconda fase, perché ci si debba fermare addirittura prima, perché non si riesce neanche a soddisfare tutti i rimborsi. Però tutto dipenderà dalla dotazione finanziaria e su quella, insomma, magari potrebbero arrivare delle novità. È tutto fermo, tutto da vedere. L'ultima domanda sull'argomento la assegniamo a Luigina da Brescia, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno, una domanda velocissima. Volevo capire se per avere diritto a questo incentivo per l'acquisto di una macchina nuova è indispensabile consegnare alla concessionaria la macchina vecchia, o se invece io posso acquistare una macchina nuova senza dare il mio usato, se ho diritto ugualmente a questo incentivo. Grazie Luigina, dobbiamo smaltire anche il vecchio, Maurizio? non è obbligatorio, se si smaltisce anche il vecchio l'incentivo è maggiore e inoltre è anche maggiore lo sconto obbligatorio che dal 1 agosto, questa è l'altra novità che c'è stata negli incentivi, c'è il venditore deve fare uno sconto obbligatorio, parliamo di 1000 euro in caso di acquisto puro e semplice e di 2000 euro se è un acquisto con rottamazione. Ottimo, ringraziamo Maurizio Caprino. Avevi qualche altra domanda, Mauro? Beh, in realtà io da Maurizio Caprino ho sempre una vagonata di domande. Mi limito a dire che naturalmente poi avremo modo di commentare, non so se lo farà lui o qualche altro collega, anche i dati sulle immatricolazioni di agosto stasera, che usciranno verso le 6, intorno alle 6, alle 18 di questa sera. Eh sì, potrebbe esserci effettivamente un numero interessante, dati tutti questi movimenti di prenotazioni di auto che vorrebbero appunto beneficiare anche degli gli sconti di cui stiamo parlando, degli incentivi. Grazie a Maurizio Caprino per essere stato con noi. Andiamo ad un altro ospite, caro Mauro, che è Furio Truzzi, che oltre ad essere presidente di Assoutenti è anche ligure, quindi pensa quanto è arrabbiato per come è andata l'estate, perché raggiungere questa regione, ce lo ricordiamo molto bene, in certe settimane non è stata proprio una passeggiata di salute. Truzzi, buongiorno. Sì, c'erano anche le orche all'arco di Voltri a fine giugno e quindi nemmeno per mare potevano. Si metta meglio che il collegamento telefonico ci fa un po' di bizze, non so. Mi sentite adesso? Adesso meglio. Adesso sì, meglio. La sentiamo abbastanza chiaro, abbastanza forte, forse possiamo migliorare. Eccolo qua. Allora, ecco, però le chiediamo un attimo di pazienza, perché noi al 45esimo sì, abbiamo questa abitudine di dare le informazioni sulla viabilità. Cioè giustamente, oggi mi sembra il minimo sindacale. E allora, essendo il 1 settembre, io lancerei a questo punto il traffico. Di denari. Il mio treno va e va dentro il mio vagone pieno di sogni. Ma scusate, ma come si fa a mettere un sito in ferie? Cioè in questo periodo di smart working, no? E con questa esigenza per i contributi dello Stato sull'acquisto delle auto. Ma che senso ha mettere in ferie un mese un sito dove la gente effettivamente si riversa e poi diventa un imbuto quando si riapre? Ma fate lavorare in smart working gli operatori. Ma che razza di governo è questo qua? Guardi, perché noi non possiamo raccontare l'altra vicenda della quale io e Mauro in privata sede abbiamo parlato in questi giorni, perché volevamo affrontare il tema dello speed e della necessità di dotarsi di speed, perché adesso servirà da fine mese, anche dal 1 ottobre, per le comunicazioni con l'INPS. Viene sostanzialmente abolito il PIN dispositivo, ne parleremo, prossimamente. Non vi raccontiamo perché non abbiamo potuto a breve fare la puntata. Stiamo... Ma il tema è attiguo alla lamentela dell'ascoltatore e la chiudo qua. Stiamo ai disagi del trasporto pubblico, gioie e dolori del trasporto pubblico, mi viene da dire, Truzzi. Allora, poi lei essendo ligure, insomma, diciamo che anche il treno ha avuto le sue vicissitudini, perché abbiamo parlato molto delle difficoltà sulle autostrade, ma posso dire anche per esperienza diretta che raggiungere la Liguria con certi treni, insomma, a volte diventa difficile e le percorrenze si allungano molto. Da dove vuole partire? Ieri c'è stata questa decisione, allora si può arrivare a una capienza dell'80%. Partiamo da lì, ecco, io non vorrei essere minimamente divisivo, no? Come capita spesso oggi, per cui non va mai bene nulla. Ecco, certo che questo 80% fa scatenare la fantasia di molti. Come associazione dei consumatori mi sento solo di chiedere a gran voce al governo e alle regioni, che poi hanno trovato l'accordo tra di loro e quindi è l'intera classe politica istituzionale che ha definito questo 80%, che facessero un'opera di bene assumendo dei navigator sugli autobus degli steward il vecchio bigliettario e per contare questo proprio 80%, perché chi lo stabilisce l'80% che poi diventa il 100% nei percorsi inferiori ai 15 minuti? Ecco, facciamo un'opera di bene, tuteliamo di più i viaggiatori, soprattutto i ragazzi, è l'unico sistema non è qualche sporadico controllo alle fermate, ma il vecchio bigliettario a bordo, e tra l'altro così controlliamo anche chi paga il biglietto, sperando che sia l'80% che paghi il biglietto come quelli che viaggiano. Speriamo, ecco, che sia il 100% dell'80%, mi viene da correggere. Sì, sì, è una correzione che accetto volentieri, ecco, sapendo che invece al 100% di quelli che non hanno la mascherina, oltre a buttarli giù dall'autobus, non solo metaforicamente, dovrebbero essere sanzionati, ecco, perché a questo punto l'unica difesa vera che abbiamo noi viaggiatori per la salute è l'obbligo della mascherina. Purtroppo a volte abbiamo registrato anche episodi molto sconvenienti di persone che o per ideologia o per stupidità non si mettono la mascherina, con grave danno dei loro vicini. Truzzi, andiamo invece alla vostra battaglia di queste ultime ore. Stiamo parlando di quella battaglia che interessa tutte quelle persone che stanno cercando di ottenere il rimborso per un abbonamento non utilizzato a causa dell'emergenza. Abbonamento naturalmente per viaggi sui mezzi pubblici, sui treni, quindi ci riferiamo in particolar modo a tutti, per esempio, i lavoratori pendolari. Chiaramente, stando ferme molte attività economico-produttive nei mesi passati, molte persone non hanno abbandonato le loro case, hanno chiesto quindi la sospensione dell'abbonamento, confidando in un risarcimento, in un prolungamento dell'abbonamento relativo ai mesi non utilizzati, insomma, ma mi pare che anche da questo punto di vista ci siano ancora molte richieste insoddisfatte. Sì, diciamo che anche qui, poiché il nostro sistema trasportistico, a parte i vettori nazionali, ma su questo poi diremo, come Trenitalia, è fortemente ancorato alle scelte dei vettori locali e quindi delle regioni, abbiamo una sorta di Arlecchino in Italia, dove la casalinga di Voghera non ha diritto, mentre il fattore di potenza sì. Ecco, battute a parte sulle tipologie della nostra società, il tema vero è che a tutti va garantito la prosecuzione dell'abbonamento, indipendentemente se siano lavoratori o studenti, anche alle casalinghe, pensionati, a tutti. E quindi noi vigiliamo su questo, e in questo senso abbiamo scritto alle regioni che garantiscano questa prosecuzione, o in alternativa i voucher, che devono essere open, non destinazione a destinazione come a volte accade. Ecco, devo dire che parlando con la responsabile regionale di Trenitalia, la dottoressa De Filippi, ho trovato un'apertura anche su un ultimo punto per noi molto importante, che è quello del rimborso in denaro per quelle categorie di viaggiatori che purtroppo, o per scelta o per dovere di telelavoro, di smart working, non fanno più l'uso del treno, e a questo punto non se ne fanno nulla, né del prolungamento né magari del voucher, e quindi a queste persone va dato un rimborso in denaro. Bisogna quindi che ci sia, insomma, una grandissima flessibilità e una disponibilità a considerare caso per caso. Questi, tre punti sono questi, prolungamento, voucher e denaro. Diciamo che con Trenitalia siamo molto vicini alla chiusa, ecco, sono un po' preoccupato sulle singole imprese di trasporto urbano, dall'ATAC all'ATM piuttosto che ad altre, ma abbiamo, sono confidente che anche loro capiscano che per quei pochi casi motivati di chi non ha proprio più bisogno dell'autobus devono dare il denaro, mettano le mani al portafoglio e lo rifacciano rientrare nei fondi straordinari che il governo sta stanziando, e ribadisco che nei fondi straordinari ci siano anche gli stipendi per i nuovi bigliettari dell'epoca. Su questo punto del bigliettaio devo dire, capisco che vi sta a cuore, anche perché effettivamente lo vediamo anche nelle cronache locali, non solo a Milano, diventa talvolta difficile far rispettare questo obbligo. Mi immagino poi con questa capienza, mi viene da dire mobile, quindi 80%, però che può arrivare al 100% se la percorrenza è inferiore ai 15 minuti, ad esempio negli scuolabus. Insomma, capisco che il tutto si pasticcia parecchio, e l'autista, oltre a guidare, avrebbe anche compiti in qualche modo di verifica dell'applicazione delle normative. Posso dirle che l'azienda dei trasporti municipali di Milano dà la possibilità abbastanza agevole via internet, via sito, del prolungamento dell'abbonamento. Sì, sì, mi è noto, prego. Mi scusi se interloquisco, così si stanno indirizzando anche le altre grandi municipalizzate. Anche da Bologna, ci scrive Mara, l'azienda ha già dato rimborso all'abbonamento annuale per andare a scuola a mia figlia su 330 euro, dati 88 euro in voucher, ma il prossimo anno che abbonamento devo fare? Ecco perché poi si apre anche questo, no, di interrogativo. Una volta che abbiamo risolto potenzialmente questo progresso e trovato un'azienda disponibile ad accontentarci, a questo punto che cosa facciamo? Un abbonamento elastico per l'anno prossimo? Che cosa suggeriamo di fare ai nostri ascoltatori effettivamente, Truzzi? Perché io più che agli ascoltatori suggerirei alle aziende, alle loro associazioni di categoria di predisporre un abbonamento open. Ecco, diciamo che facendo i debiti scongiuri però dobbiamo essere prudenti e quindi un abbonamento all'epoca del Covid è pensabile, ecco, con gli attuali sistemi, e quindi un abbonamento open che senza bisogno di ulteriori tavoli, riunioni di governo eccetera, no, sia come dire valido nei periodi di non utilizzo, ovviamente per autodichiarazione, perché poi il problema vero è anche quello che molti lavoratori per fortuna pur durante il Covid hanno lavorato e quindi costoro non hanno diritto a nessuna prosecuzione dell'abbonamento perché non possono dichiarare di non essere andati a lavorare o di averlo fatto in smart working, e quindi diciamo così si basa tutto anche molto sull'onestà dei viaggiatori nel dichiarare esattamente la loro condizione. Allora, intanto stavo guardando altri ascoltatori. Io ho ottenuto il ristoro dell'abbonamento autobus urbano studenti per mia figlia, che mi verrà applicato facendo lo sconto al prossimo rinnovo. È Fabio da Vicenza che ci scrive: 76 euro su 256 euro dell'abbonamento annuale. Beh, comunque mi sembra che a giudicare dalle testimonianze poche lamentele e più un riconoscimento delle disponibilità appunto delle aziende a venire incontro. Ma agli utenti. Sono ripartite. Ecco, finalmente direi che io confido che entro il 10 settembre la situazione non sia solo a macchia di leopardo, ma generalizzata in tutto il paese, perché, come dire, crediamo poi ci sia la necessità assoluta che prima dell'apertura delle scuole sia tutto molto chiaro. Il prolungamento dell'abbonamento, perché arrivano questi casi appunto di mi fanno lo sconto sul rinnovo, e altre aziende di trasporto pubblico locale fanno un prolungamento dell'abbonamento, cioè come le palestre. Tot mesi non si è potuto utilizzare, esattamente, dice Deborah, come le palestre. È un comportamento comunque corretto, Truzzi? Beh, assolutamente sì, direi che il prolungamento dell'abbonamento ha senso qualora sia in corso di validità. Ecco, prendiamo uno studente che ha chiuso con l'abbonamento semestrale, perché ovviamente il titolo di viaggio non è solo quello annuale, ecco, ci tengo a ribadirlo, e vale anche addirittura fino ai mensili, ecco, per cui chi avesse fatto a marzo, per dire, un abbonamento mensile, sapendo poi che dall'8/9 è partito il lockdown, ha diritto comunque anche al rimborso l'abbonamento, quindi mi raccomando, non solo gli annuali. Ed è tutto evidente che il prolungamento è una scelta operativa dovuta alla condizione dell'abbonamento stesso. Se l'abbonamento è già chiuso, è corretto, come ha fatto a Vicenza, che gli diano il voucher. Mm-hmm. O è ancora più corretto, come sta succedendo ad esempio in Emilia, lo sapete che loro hanno introdotto il biglietto gratuito per i 14enni e da quest'anno, e quindi per coloro i quali avevano l'abbonamento l'anno scorso, che hanno ancora meno di 14 anni, è previsto il rimborso di denaro. Quindi, come dire, un po' di intelligenza in giro per l'Italia c'è. Ecco, speriamo che il sistema si sia questa politica flessibile, dove le coordinate principali sono sicuramente quella di far viaggiare i viaggiatori che non hanno viaggiato durante il lockdown senza ulteriori costi, come prevede il governo, che ha stanziato dei soldi per questo. Ecco, lo vorrei ricordare, che non è benevolenza, ma sono soldi degli italiani, in tasse e quant'altro, che vanno destinate a queste operazioni di ristoro, e dunque confidiamo su questo. Furio, un'ultima domanda, poi ci salutiamo, ci manca poco meno di un minuto. Voi come assutenti avete attivato un indirizzo di posta, nessuno escluso, @assutenti.it, chi può scrivervi e per chiedere che cosa? Beh, ci può scrivere chiunque abbia necessità di chiarimenti precisi per il suo abbonamento e abbia come dire necessità di casi particolari, che dicevo sono quelli del rimborso in denaro o altre tipologie di questo. Ecco, quindi diciamo che uno sportello virtuale aperto, certo, a tutta la problematica del rimborso. Certo. Che dà anche a voi l'opportunità di mappare un po' le situazioni più problematiche. Caro Mauro. Bene. Mm-hmm. Va bene, e allora attrezzatevi, visitate i siti del trasporto pubblico locale, attenzione alla capienza, e tutto ciò premesso, cara Deborah, ci vedremo anche domani, perché domani è mercoledì. Allora io domani devo fare un'altra cosa, non vengo in redazione, se non ti dispiace torno giovedì per Investire Informati, quindi vedi di farmi trovare ben disinfettato il tavolo, non fare i soliti festini. No, faremo bisboccia, però parlando di lavoro, perché domani è mercoledì, si parla di lavoro. Buona giornata.